Feed me, baby. Feed me, baby. Can't hold me back. Originale, originale, originale. Nazza Radio Roma, Nazza Radio Roma. Originale, originale, originale. Nazza Radio Roma, Nazza Radio Roma. Originale, originale, originale. Nazza Radio Roma, Nazza Radio Roma. Nazza Radio Roma, Nazza Radio Roma. Solo su Nazza Radio Roma, musica originale. Originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale. Bentornato a tutti dal vostro amico Gasperino. Oh, fantastiche novità ci saranno in questa radio qua. Scaleremo vette che ci porteranno in cima al sapere musicale. Incontreremo amici che hanno voglia di raccontarsi, darci una mano. Quest'anno ci saranno nuove voci, nuove forze lavoro. Insomma, ci saranno tante, tante novità. Dove? Sempre qua, su Nazza Radio Roma. Wonderful. Nuova programmazione, nuovo di tutto, ma siamo sempre noi con la musica Creative Commons. In questa nuova stagione incontreremo tantissimi artisti nuovi, vi faremo conoscere tantissima buona musica e, come al solito, a contornare il tutto ci saranno le chiacchiere, le curiosità, le solite scemenze dei VJ de Nazza Radio Roma. Iniziamo questo bel podcast con un'etichetta dal nome Bad Panda Records. L'artista è di Londra, il suo nome è Everlong e dal suo EP ci ascoltiamo la traccia number 3, Pix. The Radio, The Radio. Wonderful. Wonderful. Thank you. cosa ne pensate della musica che vi stiamo trasmettendo? È una musica sicuramente libera, è una musica fatta di espressioni ed emozioni. Ed è quello che cerchiamo di raccontarvi attraverso i nostri lavori, attraverso il nostro sito, attraverso le nostre dirette, attraverso le recensioni, attraverso i podcast. Andiamo avanti. Loro sono di Sesto San Giovanni e sono insieme dal 1995. Ci propongono una musica elettrosperimentale e i Blue Cows la suonano così. Dal nome Loshana David, che è alla sua 14ª fatica artistica. Da questa ci andiamo ad ascoltare l'inedito Bossa Jazz. direttamente sulla piattaforma di Jamendo potete trovare un disco caldeggiato dalla nostra amica Coriandolo, dal titolo Jazzy Summer Remix. Da qui ci andiamo a degustare Caffè del Chilia. NRRR. In the summer. Radio, Wonderful. Luca Maria Burocchi, Filippo Marinacci, due artisti, due jazzisti che ci regalano la casa delle sette note. Buon ascolto! The next song I'm gonna do is only with myself, with the samples. Normally we got beautiful and nice strings, real strings. It's called Gone with the Wind. Liliane Hack. Hmm. now that love is gone, I'm left here on my own. Another one you found, you left me all alone. I thought our love was strong. I don't know what went wrong. I felt we had a chance. Our love seemed like a dance, a sweet album bliceblood.com, traccia Voodoo. Ah! sulla piattaforma di Free Music Archive trovate il prossimo artista che risponde al nome di Bacco Baccanels, un artista che si è fatto completamente da solo. Provare per credere. Sono ridotto uno straccio, per questo mi faccio anche se non mi va. Ho una pistola che langue in mezzo alle gambe che non spara mai. Entra peccato e castità, vive la stirpe mia. Gira la giostra, rock and roll, e la porta via. Giacca, cravatta, morfina, una bomba in cantina, mi divertirò. Sono soggetto pesante, mi piace la gente, ma solo a metà. Ideali veri non ne ho, rimorsi non ne ho. Non credo a quello che si scrive, ma neanche un po'. Sono ridotto uno straccio, anche se non mi va, anche se non mi va, anche se non mi va. Sono ridotto uno straccio, sono ridotto uno straccio, per questo ti piaccio anche se non ti va. Sei la mia macchina Sado, io sono il tuo maso, il tuo buco nel naso. Io sono la tua guida, sai, io sono Dalai Lama. Ti faccio risuonare come una campana. Sono ridotto uno straccio, anche se non mi va, no, no, anche se non mi va, no, no, anche se non mi va, no, no. Sono ridotto uno straccio, anche se non mi va, no, no, no, no, no, no, no. Sono ridotto uno straccio, sono ridotto uno straccio, anche se non mi va, no, no, no, anche se non mi va, no, no, no. Sono ridotto uno straccio, anche se non mi va, no, no, no, anche se non mi va, no, no, no, anche se non mi va, no, no, no, anche se non mi va. La traccia numero 9 di questo podcast è stata tratta da Bandcamp. L'artista è Jess Hill e canta «Mettimi precariamente in una situazione che non può sfuggire, come una rosa premuta tra le palme». Put me precariously in a situation I can't escape, like a rose pressed against the page. Hardcover, make it holy on a shelf, just out of reach, near a window that overlooks the sea. Clouds full of secrets, dropping hints through the air, loosening the skies, take grip on despair. Leave me where the blues imitate the gray. Furrowed brow, arms outstretched, I push myself near to the edge and see. Voltiamo pagina e gustiamoci un po' di sano rock, o come dice qualcuno, un po' di rumore. Audio Magma sono di Napoli e sono un quartetto che ha partecipato a diversi eventi importanti come Heineken Jamming Festival Contest, Attellana Festival. Suonano un rock a tratto sporco e ci ascoltiamo Rapporti Umani Zero su un'altra radio Roma. The radio, the radio. Wonderful. Ho bisogno di un modo più profondo di comunicare amore un senso in questa vita, in questo mondo. Sulla schiena, troppe botte sulla schiena, la gomuca è la mia vena, non ne vale più la pena. Ho bisogno. We'll be right back. farlo. Piranias. Prossima traccia è Sister Planet, proviene dalla Francia, un quartetto che risponde al nome di ASAP. Ascoltiamoli. Ascoltiamoli. sfoggiamento ho trovato un personaggio che risponde al nome di Underground Zine, il quale si diverte a fare delle compilation metal rock punk. All'undicesima traccia della raccolta, attenzione, questa compilation contiene metallo, troviamo i Discordia con Schemi Chiusi. Ascoltiamoli su un'altra Radio Roma. Radio Wonderful. Faccio un salto nel passato con una formazione di Milano, rispondo al nome di Atrox e sono insieme dal 1982. Dal disco Domani Rosso Sangue ci ascoltiamo Lezione di Storia. Why? oltre la cortina sono errori e miserie, queste sono oggi le lezioni di storia, buoni e cattivi, dei libri di storia per tutti quelli con poca memoria. E già, e già, e già, siamo così giunti al termine di questo podcast. Siamo entrati così di fatto nella terza edizione di Programmazione dell'Arte Radio Roma. Continueremo senza sosta, senza limiti, a cercare artisti, musiche che vi possano piacere. E a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alle nostre dirette tutti i lunedì dalle 21 alle 23 tramite 1000 mics. Basta collegarsi al nuovo sito www.nartradioroma.altervista.org e da lì potrete accedere a tutte le nostre informazioni. Novità, al termine di questo podcast vi regaleremo l'ultimo jingle hardcore di Nartra Radio Roma dal titolo NRR Senza Vincoli. Vi lascio con un brano di un duo che fa un sacco di bella musica, che risponde al nome di Peer Giant London Grease, con la traccia Shattered Moon. A me non resta che augurarvi buona vita. Buona vita, buona vita, buona vita, buona vita. We'll be right back. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Io sento l'altra Radio Roma. L'altra Radio Roma. La radio, un'attitudine altona. R. Un'altra Radio Roma. La radio senza vincoli.